Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Una trasmissione dedicata alla questione animale e alle sue innumerevoli sfaccettature. Che ci riguarda in quanto, per chi non lo sapesse, anche noi umani facciamo parte del regno animale. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Ilaria Beretta, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Still having a guess, but if there's one thing... Julia Hill è una donna statunitense nata nel 1974, figlia di un predicatore religioso la cui infanzia è stata connotata da continui spostamenti della famiglia attraverso gli Stati Uniti per seguire l'attività itinerante del padre. Nell'agosto 1996 Julia ebbe un grave incidente automobilistico dal quale si riprese solo dopo un anno di cure, terminate le quali si mise in viaggio con amici lungo la costa occidentale degli USA fino ai boschi di Humboldt County, dove ebbe modo di unirsi al movimento che protestava contro il disboscamento di sequoie millenarie. Divenne famosa perché decise di salire su una sequoia di 1800 anni, una delle più antiche, chiamata Luna, ed ha resistito per ben 738 giorni in una tenda su una piccola piattaforma di legno, costruita appositamente a 55 metri di altezza, senza acqua, senza riscaldamento, senza servizi igienici, per fare pressione sul Pacific Lumber Company, la compagnia di legname impegnata nel disboscamento a fini di lucro. I sacrifici di Julia sono stati ripagati. La Pacific Lumber decise di non abbattere la sequoia Luna e di concedere una zona di rispetto attorno ad essa. Successivamente poi venne deciso di salvare un'intera parte del bosco. L'avventura di Julia Butterfly Hill è stata resa ancora più famosa dal libro The Legacy of Luna, tradotto in italiano con il titolo La ragazza sull'albero. Abbiamo incontrato e intervistato Julia Hill a Firenze durante una serata organizzata dalla casa editrice Terra Nuova Edizioni. Giulia, cos'è successo dopo i tuoi giorni sull'albero? I was able to come down on the ground again after over 2 years living in an ancient redwood tree. Ho potuto scendere a terra dopo aver vissuto più di 2 anni sull'albero, perché a quel punto avevamo assicurato la protezione della sequoia gigante dove vivevo io e delle oltre 1000 sequoie giganti intorno a noi, quindi sono scesa perché erano al sicuro davvero. Ma il lavoro continua tutt'oggi perché alcune foreste sono protette mentre altre vengono distrutte. Questo avviene in California, così come nel resto del mondo. Tutte le foreste primarie sono in pericolo. Your action was a non-violent action, a very strong action. La tua è stata un'azione forte e non violenta. C'è un movimento che segue queste regole nella lotta per gli alberi? There's a beautiful and long history, and I like to say herstory as well. C'è una bellissima e lunga tradizione storica e per noi donne mi piace dire herstory, di persone che scelgono di intraprendere un attivismo molto forte e allo stesso tempo molto pacifico. In realtà il tree sitting, cioè lo stabilirsi sugli alberi, che è l'azione per cui io sono conosciuta, anche se ho fatto molte altre azioni, è iniziato con le donne in India che abbracciavano gli alberi e quindi è dove è iniziato il movimento. Proprio in India accadono così tante cose violente nel nostro mondo e noi siamo contro la violenza, quindi per me è molto importante che le nostre azioni siano guidate dall'amore e dalla compassione e non dall'odio e dalla rabbia, anche se è una presa di posizione difficile. Di dove sei originaria? Della California o di un altro stato? I don't have a home. Non ho una casa. Sono cresciuta viaggiando e ho continuato a viaggiare per la maggior parte della mia vita. Dopo 5 giorni dal mio arrivo in California per aiutare le foreste, ero già salita su Luna, il nome dell'albero su cui stavo. Quindi ero lì da pochi giorni e ho deciso subito di arrampicarmi. Pensavo che dovesse essere per 2 settimane, un mese. Invece si è trasformato in 2 anni e 8 giorni. Cosa pensi del movimento ambientalista degli Stati Uniti? Penso che il movimento negli Stati Uniti sia come in altre parti del mondo. Avvengono delle azioni incredibili e delle persone fantastiche si uniscono e nello stesso tempo ci sono delle distruzioni strazianti. Proprio ora, mentre sono in Italia, c'è un movimento di solidarietà con i nativi del Sud Dakota e con gli attivisti ambientalisti che si battono contro l'oleodotto con cui vogliono portare il petrolio estratto dalle sabbie bituminose del Canada fino agli Stati Uniti. Quel tipo di estrazione del petrolio è il più distruttivo di tutti. Distrugge l'ambiente, distrugge gli habitat degli animali, distrugge la vita delle persone. In questo movimento vediamo persone con vite molto diverse che si uniscono. È la stessa cosa che succede col lavoro che faccio in tutto il mondo. Abbiamo queste massicce forze di distruzione, ma abbiamo allo stesso tempo persone di tutti i giorni, incredibili e coraggiose, che si alzano in piedi e dicono: vogliamo che la nostra terra sia sana, vogliamo che il nostro futuro sia bello e pacifico, e faremo qualunque cosa perché questo accada. Cosa pensi del movimento di liberazione animale? Mi piace definirmi vegan gioiosa perché molta gente, quando sente la parola vegan, pensa ad attivisti rabbiosi e a cibo noioso e insipido. Quindi mi piace dire che sono una vegana gioiosa, perché tenere in conto gli animali è qualcosa che va celebrato, non è un fatto di privazione, è un ricevere qualcosa. Io ho ricevuto questo grande regalo nel preoccuparmi per gli animali e ho scelto di darlo a loro. Faccio attivismo animalista da tanti, tanti anni. Sono famosa per l'azione sulla sequoia, ma ho fatto molte altre azioni che non sono arrivate ai media. Ho fatto una quantità di lavoro immenso per fare in modo che il movimento facesse dei passi avanti per proteggere gli animali. Molti anni fa venni in Italia e presi parte a una grande conferenza a Torino sugli animali e i diritti degli animali. Da quando ho 14 anni, questo ha fatto parte della mia vita ed è qualcosa a cui tengo profondamente. Come hai cominciato? Cos'è successo nella tua infanzia per farti reagire e agire così per gli animali e l'ambiente? I've been very, very, very sensitive since as long as I can remember. Ero molto, molto sensibile, fino da quando mi ricordo. È molto dura essere sensibili nel nostro mondo, oggi, perché essere sensibili significa soffrire, e più sei sensibile e più soffri. Non è qualcosa che mi è stato insegnato, è come sono nata. Per molti anni sono stata autodistruttiva perché non avevo gli strumenti per soffrire un po' meno in un mondo tanto violento. Quindi sono diventata violenta contro me stessa. Poi fortunatamente ho fatto molto lavoro su me stessa e ho trovato modi costruttivi e utili di relazionarmi col fatto di essere eccessivamente sensibile. Da quando ero molto piccola, dai miei primi ricordi. Julia Butterfly Hill, restiamo animali? Restiamo animali. Cima degli alberi al profondo dei mari, passiamo a parlare di tartarughe marine, le caretta caretta, animali silenziosi, poco visibili, specialmente al nord dello stivale italico, anche in quanto in tutto il bacino del Mediterraneo sono sull'orlo dell'estinzione. Durante l'estate scorsa, una coraggiosa caretta caretta ha raggiunto Capalbio in provincia di Grosseto, chissà se per colpa o merito dei cambiamenti climatici. Su questo episodio il servizio è a cura del nostro Lorenzo Guadagnucci. Capalbio, nell'immaginario nell'immaginario generale è il luogo di vacanza dei VIP, dei politici romani che salgono fino alla Maremma Toscana per passare le loro vacanze in un ambiente di relax e di bella vita. Ma quest'estate Capalbio è arrivata sulle cronache per un evento molto particolare. È accaduto il 21 luglio scorso, quando due turisti svizzeri all'alba sono rimasti stupefatti di trovarsi di fronte sulla spiaggia, proprio davanti al campeggio, un esemplare di tartaruga caretta caretta. Che cosa ci faceva la tartaruga sulla spiaggia se non la deposizione delle uova? Questo si sono detti i due turisti e poi anche il WWF e Lega Ambiente, che da quel giorno hanno organizzato un presidio permanente 24 ore su 24 per tenere sotto controllo il nido ed assistere eventualmente alla schiusa e alla corsa delle piccole tartarughe verso il mare. A dire il vero non c'è nemmeno la certezza che le uova le abbia deposte, perché i turisti svizzeri hanno visto la tartaruga quando già stava rientrando verso il mare, quindi il fatto che abbia scavato il nido sotto la sabbia è solo un'ipotesi, anche se ovviamente molto fondata, visto che le tartarughe non sono solite uscire dall'acqua se non per questa necessità. Fatto sta che il punto è stato recintato, è stata costruita anche una sorta di autostrada della tartaruga, un percorso lungo oltre 30 metri verso il mare che dovrebbe accompagnare le piccole tartarughe verso l'acqua. WWF e Lega Ambiente hanno quindi organizzato i turni dei volontari al presidio. Stasera, dalle 2 alle 8, tocca a noi. Sono con Alessandro e con Riccardo, che sono venuti fin qui da Castiglione del Lago, in Umbria. Ma la voglia di essere utili, la curiosità e la speranza di poter assistere dal vivo alla schiusa delle uova sono motivazioni molto valide, molto forti per passare anche una notte in bianco in un luogo comunque incantevole come questa parte della Maremma Toscana. Si sta al presidio, che consiste poi in un tavolino, alcune sedie, un ombrellone e un paio di tende messe a disposizione dal campeggio per eventuali turni o momenti di riposo. E si pensa, si riflette, si ragiona. E tuttavia c'è anche un aspetto, se vogliamo, paradossale, perché non sappiamo se le uova si dischiuderanno. Non sappiamo nemmeno se ci sono le uova in quel punto individuato dal georadar. E quindi potrebbe essere tutto inutile. Ma forse è proprio l'attesa il motivo principale che ci spinge qui, per cui potremmo battezzare questo presidio, parafrasando Beckett, aspettando caretta. Fabio Cianchi è il responsabile dell'oasi del WWF nel lago di Burano di Capalbio ed è la persona che ha organizzato e gestito il presidio. Fabio, perché è così importante aver individuato la tartaruga caretta caretta sulla spiaggia? Beh, indubbiamente è una cosa molto interessante da studiare e vedere nei prossimi anni, perché di fatto sia questo di Capalbio, quello della Giannella dell'anno scorso o quello del 2012 di Scarlino sono i nidi più a nord dell'area della caretta caretta. E questo può significare o un ampliamento dell'areale di questa specie o magari qualcosa che sia legato all'innalzamento delle temperature del mare, sono cose che poi andranno indubbiamente analizzate e verificate. Per noi è molto importante perché comunque, al di là di tutto, per un motivo o per l'altro è comunque un indice di buona salute dell'ambiente, sia per quanto riguarda il mare sia per quanto riguarda la costa. Alessandro, sono le 2:30 di notte, sì. Stiamo guardando un pezzetto di spiaggia assolutamente identico a tutti gli altri pezzetti di spiaggia, esatto. Potrebbe non succedere niente. Esatto. Qual è il senso di essere qui a Capalbio per te? Per me, stare qui innanzitutto è dare un contributo, avere una speranza. Forse ecco, la parola giusta da dare a questo presidio è speranza, la speranza di dare un significato, un bel significato, quello di riuscire a dare una mano a chi ne ha bisogno perché altri una mano non gliela danno, anzi, con reti e pesca e quant'altro, inquinamento. Una mano non gli si dà davvero, anzi, si dà un rifiuto a quello che è la sacralità della vita. Sono le 4 di notte, sulla spiaggia di Capalbio non c'è nessuno. Siamo in compagnia del mare che fa sentire molto forte la sua voce. In lontananza si vedono saette, ma non piove e non fa neanche tanto freddo. Non c'è molto da fare, se non osservare nel buio questa fetta di spiaggia e misurare la temperatura sotto la sabbia. A quest'ora, in piena notte, sono 20,9 gradi a 40 centimetri di profondità. E quindi fa anche abbastanza calduccio, tutto sommato questa incubatrice naturale potrebbe corrispondere alle necessità delle uova. Ma siamo già al 63esimo giorno dalla deposizione supposta di queste uova e secondo le conoscenze fin qui acquisite il tempo di gestazione dovrebbe variare fra i 45 e i 60 giorni, quindi da un momento all'altro potrebbe succedere. Ma sono le 4 di notte e non è successo niente, la sabbia non si è mossa, non c'è traccia di vita in quel punto individuato come luogo del nido della caretta caretta. E però si spera, si pensa, si riflette sul gesto così semplice e così significativo compiuto da questo animale che è venuto proprio a Capalbio per tentare la via della riproduzione. L'ha fatto in un luogo a guardar bene davvero simbolico perché fa sorridere il pensiero che questo punto di spiaggia si trovi fra due località evocative, una per il nome che porta, l'altro per l'insediamento che vi è stato costruito. A nord, a poche decine di metri da qui, c'è un luogo che si chiama Ultima Spiaggia. È un posto dove semplicemente si va a fare il bagno, ma così si chiama. Verso sud, a qualche chilometro di distanza, ma di giorno ben visibile anche a occhio nudo, c'è la centrale nucleare di Montalto di Castro, anzi, la ex centrale nucleare di Montalto di Castro, visto che un referendum, un bel po' di anni fa, decise che l'Italia avrebbe rinunciato allo sviluppo dell'energia nucleare, una tecnologia emblematica del Novecento per il suo potenziale distruttivo di morte, sia per l'uso militare che se ne fa e che se ne è fatto, sia per l'inquinamento permanente che produce. Ecco, la caretta caretta ha fatto irruzione portando il suo desiderio di vita, il suo punto di vista di animale selvatico, in relazione davvero con la natura, con il pianeta Terra, e lo ha fatto per mandare un messaggio a una società da questo luogo, quasi a dire che la nostra società è a metà strada fra un modello tecnologico di società, di sviluppo, rapace e distruttivo, e ormai in prossimità, per questo suo modello, di un'ultima spiaggia, di un'ultima possibilità. Ecco, alla fine c'è veramente tanto, tanto di simbolico e di significativo in questo gesto, e chissà se ne sapremo cogliere davvero il senso. Still ice cream, worries vanish within my dream. Giuseppe, sapevi vero che c'è chi ama bere il brodo di tartaruga? Al solo pensiero mi viene mal di stomaco. A me viene anche il mal di mare. Per il mal di mare sono sicuro che la ricetta del tosco vegan chef Gabriele Palloni di questa settimana farà al tuo caso. Dai pirati dei Caraibi ai pirati di Capalbio. Siamo disposti a vegliare le uova di caretta caretta sulla spiaggia se la ricompensa sarà un piatto di spaghetti del pirata vegano. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave. Fra pirati che si ispirano a star del rock, pirati uncinati che fuggono da famelici coccodrilli e pirati bendati che solcano gli universi a bordo di navi spaziali, non poteva mancare un pirata vegano. E questa la ricetta dei suoi famosi spaghetti. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di spaghetti, la scorza di mezzo limone, un ciuffetto di prezzemolo, mezzo bicchiere di vino bianco, 300 g di pomodorini maturi, un peperoncino, un cucchiaino di alghe rame essiccate, uno spicchio di aglio, un cucchiaio di pan grattato, un cucchiaio di olio di semi di lino, olio extravergine di oliva, sale e qualche pistacchio. Mettete le alghe in ammollo nel vino bianco. Nel frattempo tagliate i pomodorini a pezzetti piccoli. A parte, tritate il pan grattato nel mixer con l'olio di semi di lino e fate tostare il tutto a fuoco lento in una padella. Quando sarà ben dorato e croccante, togliete dal fuoco e conservate per la guarnizione finale. Adesso fate rosolare in olio extravergine di oliva un trito di aglio, prezzemolo, alghe rame che avrete scolato conservando l'acqua di ammollo e la scorza di limone. Bagnate con l'acqua di ammollo e fate ritirare. A questo punto aggiungete i pomodorini e fate ritirare per 10 minuti. Lessate la pasta e scolatela 2 minuti prima della cottura. Unite gli spaghetti alla salsa e finite di cuocere in padella aggiungendo poca acqua di cottura alla volta. Servite con qualche pistacchio col guscio, una spolverata di pan grattato e olio di semi di lino e del prezzemolo tritato finemente. Sono non sono il capitano Uncino. E allora quando vi chiamo? La caccia alla lodola apre in Italia il 1 ottobre per chiudersi il 31 dicembre e comporterà un danno letale alla popolazione di questa specie, già calata del 45% nel periodo 2000-2014, soprattutto in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Sono 1,8 milioni gli esemplari abbattuti ogni anno in Italia, pari al 73% del totale delle allodole uccise in Europa. Classificata come vulnerabile nella lista rossa italiana, oltre a essere decimata dai cacciatori, l'allodola è minacciata dall'agricoltura intensiva, nidificando direttamente sul terreno. Infatti, lo sfalcio dei prati in pieno periodo di nidificazione causa la distruzione del nido e la morte dei piccoli. Per questo la Lipu BirdLife Italia già da alcuni mesi ha lanciato una petizione rivolta al premier Matteo Renzi, che ha già raccolto 30.000 firme, chiedendo un decreto del Presidente del Consiglio che vieti la caccia all'allodola. La Lipu sostiene che questa specie non è più in grado di sopportare la pesantissima pressione venatoria di cui è oggetto nel nostro paese e non solo. In diversi stati europei l'allodola è già stata defalcata dalle specie cacciabili e gli unici paesi dove la persecuzione a questo meraviglioso uccello canterino è consentita sono Francia, Grecia, Romania, peraltro riserva venatoria prediletta dai cacciatori italiani che vanno all'estero, Malta e Cipro e naturalmente l'Italia, che da sola, ricordiamolo, realizza 3/4 dello sterminio. Per firmare la petizione Salva allodole basta andare sul sito internet della Lipu, www.lipu.it. Si apre a Roma Festival hashtag Animali, la prima rassegna nazionale di arte per i diritti degli animali. L'iniziativa, in programma dal 4 al 27 ottobre alla Factory del Macro Testaccio, è organizzata dall'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, con il patrocinio, tra gli altri, del Senato della Repubblica e ha l'obiettivo di riflettere sul legame tra l'uomo, gli animali e la natura attraverso l'arte, diffondendo anche una cultura del rispetto verso questi altri animali. La manifestazione ospiterà 3 sezioni: immagini, parola, spettacolo. La partecipazione è a titolo gratuito, è aperta a creazioni pittoriche, fotografiche, video, teatrali, musicali, installazioni di arte contemporanea, illustrazioni e fumetti che abbiano per oggetto il mondo animale legato ad una delle parole tag. Queste parole sono bellezza, felicità, sofferenza, libertà, diritto, tradizione, schiavitù, terrorismo, guerra, cultura, migrazioni, architettura, paesaggio. Le opere saranno esposte o rappresentate durante tutti i giorni della manifestazione. Il regolamento sancisce che nessun animale debba venire maltrattato, offeso, umiliato o sfruttato per la realizzazione dei lavori. Questa ci sembra la migliore risposta ai vari artisti che con le loro opere straziano il corpo di tanti dei nostri fratelli animali. A fine agosto a Londra una compagnia assicurativa ha sponsorizzato Playmore, la prima mostra d'arte interattiva dedicata principalmente ai cani, ma non solo. Una piscina a forma di ciotola stracolma di palline, simili per forma e colori ai classici croccantini. Un simulatore di frisbee che rimbalza intorno a una schermata. Un simulatore di finestrino d'auto aperto per sentire il vento sul muso. Zaffate d'aria al gusto di bistecca e scarpe da ginnastica usate. Zampilli d'acqua e installazioni multimediali. Insomma, il posto ideale per ogni cucciolo. La mostra ha avuto un enorme successo. E ciascun umano che l'ha visitato si è impegnato a trascorrere più tempo e giocare con il suo cane. Ultima ora, i piccioni hanno capacità ortografiche. Ebbene sì, i piccioni, Columba, Livia, sono in grado di distinguere differenti sequenze di segni e di capire se seguono una regola ortografica, formando delle parole. I circuiti cerebrali che permettono questa funzione, che è uno dei presupposti della capacità umana di leggere, potrebbero quindi essersi sviluppati prima dell'ultimo antenato comune tra primati e uccelli, quindi oltre 300 milioni di anni fa. Questa conclusione è il frutto di uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Otago a Dunedin in Nuova Zelanda e dell'Università della Ruhr a Bochum in Germania, che hanno firmato un articolo che è stato pubblicato su un giornale di scienza molto famoso, Proceeding of the National Academy of Science. Da anni sono in corso studi e ricerche che comparano certe competenze dei primati e quelle degli uccelli. Sembra infatti che ci siano molte evidenze sperimentali che proverebbero che gli uccelli possiedono alcune abilità ritenute prima esclusive dei primati, come per esempio la memoria episodica o l'uso e la produzione di utensili. Già nel 2011 la rivista Science aveva pubblicato uno studio che dimostrava come i colombi possono rivaleggiare con i macachi nella capacità di seguire, pensate, alcune regole di conteggio. Applicando a questi uccelli lo stesso metodo di addestramento già sperimentato sui macachi rhesus per insegnare la numerosità, una ricerca quindi dimostrato che i piccioni hanno competenze matematiche, numeriche, paragonabili alle scimmie. All'origine di questa analogia tra specie così distanti potrebbe esserci stata una convergenza evolutiva o un tratto omologo derivato da un comune antenato remoto. E qui si parla dell'origine dell'uomo e ci chiediamo se per stabilire quale sia l'origine dell'uomo, sia giusto fare comunque ricerche sugli altri animali. È una questione etica applicata alla scienza. La risposta di questa redazione è un convinto no. Some people been driving too fast. Siamo in chiusura. Per concludere ringraziamo tutte le voci che hanno polifonicamente realizzato questa puntata e che sono state quelle di Giulia Butterfly Hill, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco e la nostra super farfalla Camilla Lattanzi. L'appuntamento è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.